Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola Semi nel vento ed è il nuovo romanzo di Alessandro Perissinotto pubblicato da PM. In genere il nome di Perissinotto è stato legato ai polizieschi, per esempio quelli con protagonista la psicologa Anna Pavesi, e cioè Una piccola storia ignobile, L'ultima notte bianca, L'orchestra del Titanic. Stavolta però Perissinotto abbandona il genere poliziesco e ci regala un romanzo di denuncia sociale. In Semi nel vento il protagonista Giacomo sposa una donna iraniana, decidono di trasferirsi in un piccolo paese del Piemonte sperando di trovare una dimensione idilliaca. In realtà si trova a fronteggiare i pregiudizi della gente nei confronti di una donna straniera. Ecco come Perissinotto descrive il suo protagonista Giacomo. È un 35enne nato in un paesino di montagna nella provincia di Vercelli. Ha studiato da maestro, ma poi si è specializzato nella didattica scientifica per bambini e quindi lo troviamo a Parigi che organizza mostre per bambini alla Cité des Sciences, ma che arrotonda la sera facendo il cameriere in un piccolo caffè teatro, ed è proprio in questo piccolo caffè teatro che la sua vita cambia. La sua vita cambia perché incontra una donna. Chi è? Incontra Shirin, che è una ragazza francese di una bellezza particolare, purtroppo per lui già fidanzata, ma vedremo, il lettore scoprirà che questo non è un grossissimo problema. E come dice il suo nome, Shirin è di origine iraniana, i suoi genitori hanno abbandonato l'Iran ai tempi della rivoluzione, lei è perfettamente integrata nella società occidentale, alta borghesia. Si innamorano, si sposano, con piccola delusione del fidanzato di Shirin, ma di lì in poi inizia il resto. Inizia il resto perché i due decidono di trasferirsi a un certo punto in un piccolo paesino del Piemonte. Che cosa accade qui e perché decidono di trasferirsi? Allora, decidono di trasferirsi nel paese natale di Giacomo perché c'è una causa occasionale. Giacomo riceve l'invito a fare il maestro nella scuola che lo aveva visto allievo. La scuola elementare viene riaperta e viene riaperta all'insegna della tradizione. Giacomo è il maestro ideale perché può insegnare anche il dialetto, può insegnare le tradizioni locali, e Shirin è affascinata da queste radici perché lei, in quanto sradicata dall'Iran, a Parigi non ha mai avuto questo tipo di radicamento. Arriva a Molini, questo paesino, e tutto è meraviglioso, tutto è fantastico, l'accoglienza è calorosa, c'è la natura, adottano un cagnolino, è tutto molto bello, ma ovviamente c'è qualche cosa che si nasconde dietro questa bellezza. All'inizio quindi c'è accoglienza da parte dei concittadini, poi invece l'atteggiamento cambia, perché? Ma l'atteggiamento cambia perché c'è un modo, secondo me, fasullo di interpretare la tradizione, un modo molto politico, e qui è facile capire a quali forze politiche faccio riferimento, un modo che interpreta la tradizione come una forma di esclusione, di filo spinato. La mia tradizione è qualcosa che mi consente di tenere lontano gli altri, e non è questo il senso della tradizione. Ecco che Shirin, che si sente così ben radicata, così ben accolta, comincia a essere messa un po' di lato. Lei è di origine iraniana ma è atea, ma viene additata come islamica e quindi, in ossequio a questi principi politici, come pericolosa. Lei canta addirittura le canzoni tradizionali piemontesi, ma alcuni sindaci del posto non invitano più la corale del paesino perché c'è lei che canta e dicono la nostra tradizione non può essere affidata a una ragazza, che a un'islamica, mentre Shirin non lo è, ma comunque non è questo il punto. Lei è straniera e come tale viene messa da parte. Quindi ci sono proprio degli atti di razzismo che vengono compiuti nei suoi confronti? Ci sono degli atti di razzismo e uno potrebbe pensare che tanto questa è pura invenzione e potevo metterci qualsiasi atto di razzismo. Ma se andiamo a vedere le delibere dei sindaci leghisti del Nord Italia, noi assistiamo alle cose più fantasiose. Quella che mi ha mosso a scrivere questo libro è una delibera del sindaco di Varallo Sesia che impediva alle donne islamiche di bagnarsi lungo le spiagge fluviali del comune indossando il costume islamico, che è un costume che lascia comunque scoperta la faccia. In altri paesi, ricordiamo tutti l'operazione White Christmas: denuncia il tuo vicino di colore per Natale, ottieni il tuo paese pulito per Natale. In un altro comune è vietato agli islamici avvicinarsi più di 150 metri alle chiese cattoliche. Allora, questi atti di razzismo sono concreti, sono la nostra attualità politica, e io li ho inseriti in quel paese come origine del dramma, perché il romanzo, dobbiamo ammetterlo, ma viene detto fin dalle prime pagine, si configura come un dramma. La fascetta stessa recita: se Romeo e Giulietta nascessero oggi, quale odio li ucciderebbe? E semina il vento vuole proprio dire questo: stiamo seminando il vento dell'odio, chi semina il vento raccoglie tempesta, non sappiamo ancora che tempesta raccoglieremo, ma sarà una tempesta drammatica. Anche il sindaco del paesino dove Giacomo e Shirin si trasferiscono è leghista. In questo c'è un po' una critica da parte sua, una critica proprio sociopolitica. Ma evidentemente sì, c'è una forte critica perché da parte della Lega c'è una costruzione di un nemico, lo straniero come nemico. Bisogna dire che la Lega ha costruito dei nemici uno dopo l'altro. Prima i nemici erano i meridionali, poi sono stati i polacchi. Ci ricordiamo l'opposizione della Lega alla Chiesa Cattolica perché il Papa polacco faceva venire i polacchi in Italia. Poi i nemici sono gli islamici. È un partito che, non avendo niente da dire, soprattutto in campo culturale, non essendosi fatto interprete di una tradizione, ha bisogno di costruirsi il nemico per avere consenso, e sta trovando sempre più consenso perché costruisce sempre più nemici. Io non voglio vivere in un paese dove per avere unità politica dobbiamo avere paura degli altri, non voglio vivere nella paura, ecco, è questo. Loro ci vendono sicurezza, in realtà ci creano prima la paura. È un po' come quelli che ti fanno pagare il pizzo e poi ti offrono la loro protezione. Ecco, prima loro ci creano le paure e poi ci vendono anche la risposta. Dopo Sette polizieschi, un romanzo appunto un po' diverso, sta cambiando genere? Sì, già col romanzo precedente, che era ambientato in Argentina, aveva a che fare con la dittatura, c'era stato un cambio. Diciamo che non è un cambio definitivo, il poliziesco continua ad affascinarmi, ma sento l'urgenza di parlare del mio paese. Io credo che lo scrittore sia una specie di sentinella che deve annunciare i pericoli in arrivo, e questo è stato il mio scopo. E questo era Alessandro Perissinotto, autore di Semi nel vento. Prima di chiudere vi ricordo che dal 27 al 29 maggio c'è Scrivere sui margini, il festival delle letterature e della società al Villaggio Barona di Milano. Ci saranno scrittori esordienti come Viola Di Grado e Barbara Di Gregorio, e autori già affermati come Alessandro Bertante e Gabriele Romagnoli. E poi vi ricordo che ogni domenica dal 22 maggio in edicola, con Il Sole 24 Ore al costo di 50 centesimi, ci sono i racconti d'autore, racconti di grandi maestri della letteratura, da Hemingway a Sepulveda, da Philip Roth a John Fante. Ogni domenica, e solo la domenica, in edicola un racconto diverso. Il primo in edicola è Sotto il crinale e altri racconti di Hemingway. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.